Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il biotestamento passa in Senato a larga maggioranza, ora è legge, sarà un diritto rifiutare le cure. Scontro aperto nel centrodestra sulla giustizia, Salvini a Berlusconi, nessun tavolo con chi protegge gli stupratori. Non ci sono prove di interventi stranieri sul voto in Italia, dice l'intelligence italiana. Migrazione dai paesi dell'est, fondi per l'Africa, Gentiloni, rilevante, ma il minimo sindacale sono le quote obbligatorie. È terminata la terza missione nello spazio di Paolo Nespoli, in orbita dal 28 giugno. La Soyuz è atterrata oggi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video come sempre, la pagina Facebook di Effetto Giorno è quella di Radio 24. Dall'altra parte del vetro Roberta Frisani in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione. Iniziamo dal biotestamento. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Accolto con un lungo applauso a Palazzo Madama arriva il via libera definitivo per il biotestamento, sostenuto da un'ampia maggioranza trasversale che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra e parte di Forza Italia. Il testo passa con 180 voti a favore e 71 contrari. La legge prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o portato avanti senza il consenso della persona interessata. Ogni maggiorenne capace di intendere e volere potrà esprimere le sue preferenze anche rifiutando la nutrizione e l'idratazione artificiali. Oltre che in forma scritta, le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, sempre revocabili, potranno essere espresse anche attraverso la videoregistrazione o l'uso di dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. Dure le critiche dal fronte del no, secondo il quale la legge spiana la strada all'eutanasia. Il biotestamento è un enorme passo avanti nel rispetto della libertà di scelta di chi soffre e dei malati terminali, commenta invece soddisfatto il radicale Cappato, da sempre in prima fila nelle battaglie sul fine vita. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo nell'ambito della politica perché resta aperto lo scontro all'interno del centrodestra. Tutto questo mentre ormai la data delle elezioni sembra che si stia definendo, lo abbiamo raccontato ieri, il 4 marzo. Sentiamo. Il centrodestra si spacca, il centrosinistra è già spaccato, esulta il Movimento 5 Stelle convinto di essere il primo partito. Dopo lo strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi interviene Luigi Di Maio. Siamo più vicini al governo, ancora più vicini, perché io l'avevo detto, il centrodestra è una coalizione che non esiste. Allo stesso tempo Berlusconi e Renzi flirtano, anche ieri sera Berlusconi ha detto che vorrebbe di nuovo Gentiloni al governo. Nel centrodestra le tensioni sono tutt'altro che attenuate. Lo strappo di Matteo Salvini è iniziato sul no di Forza Italia al disegno di legge sugli sconti di pena e prosegue dopo l'apertura dell'ex cavaliere al possibile Gentiloni bis in caso di pareggio alle urne. Nel centrosinistra invece Pietro Grasso spera in una campagna elettorale appassionata e leale con un'inversione di tendenza sull'astensionismo, mentre Pierluigi Bersani non nega un possibile accordo con i 5 Stelle. Così a Repubblica TV. Mi si chiede sempre i 5 Stelle. Se fossero disposti loro a ragionare, vuol dire che sono cambiati loro, mica sono cambiato io. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo in zona parlamentare, le cronache della manovra. Riprende in Commissione Bilancio della Camera l'esame della manovra. Sono circa un migliaio gli emendamenti da vagliare entro lunedì per poi chiudere la partita in aula entro il 20 dicembre. In arrivo un emendamento del governo che punta a introdurre una stretta contro le frodi e l'evasione IVA su idrocarburi e carburanti in grado di portare maggiori risorse per 150 milioni di euro nel 2018, 300 nel 2019 e nel 2020. Soldi che, ha spiegato il viceministro all'economia Morando, serviranno per coprire le richieste arrivate dagli enti locali. Verrà poi rifinanziato con 75 milioni di euro il trasporto degli alunni disabili. Il governo ha depositato in commissione anche l'emendamento che allarga l'APE social ad un totale di 15 categorie di lavori gravosi, assorbendo quindi le 4 in più per le quali, dopo l'accordo con i sindacati, è già stato deciso al Senato lo stop all'allungamento dell'età pensionabile. Sale poi ad un anno per ogni figlio entro il limite di 2 lo sconto sui requisiti di accesso all'APE social concesso alle lavoratrici donne. E poi, tra le ultime novità, la revisione del calendario fiscale. Il ripristino pieno del bonus bebè. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E proseguono sempre in Parlamento le audizioni della commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Oggi parola alla Consob, noi la diamo invece alla nostra Livia Zancanera. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, è iniziata da poco in realtà l'audizione del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che ricordiamo domani chiude dopo 7 anni il suo mandato. L'audizione quindi di Vegas arriva dopo quella del suo vice direttore generale D'Agostino, durata circa 3 ore questa mattina. D'Agostino ha evidenziato in particolare le carenze di informazione contenute nei prospetti informativi delle banche, a partire da quella di Etruria. Nel 2012-2013 Banca Etruria ha raccolto 320 milioni di euro, tacendo al mercato la situazione critica in cui si trovava, ha spiegato D'Agostino. Sentiamo. L'informativa complessivamente fornita al supplemento non consentiva di cogliere il fatto che da tempo la situazione aziendale del gruppo BPL evidenziava elementi di marcata anomalia, a fronte dei quali la Banca Italia ha rappresentato più volte agli organi aziendali l'esigenza di attivarsi per risanare la gestione connotata da significativi squilibri tecnici e debolezze organizzative. Altro elemento critico emerso dall'audizione è che la Consob è venuta a conoscenza dei rilievi della Banca d'Italia anni dopo la conclusione degli accertamenti ispettivi e non dalla Banca d'Italia stessa. In ogni caso, negli ultimi 3 anni sono stati fatti passi da gigante nella collaborazione tra Consob e Via Nazionale, ha concluso D'Agostino. Ed è tutto. Grazie Livia Zancaner. Per chiudere la pagina correlata quantomeno alla politica, c'è la vicenda che riguarda il sindaco di Milano Giuseppe Sala, perché ieri, come forse saprete, è arrivata una nuova accusa sulla vicenda dell'Expo per il suo ruolo da commissario dell'Expo. L'ipotesi è di abuso d'ufficio, si va verso un'altra richiesta di rinvio a giudizio. I suoi legali parlano di una persecuzione e poco fa sono arrivate i dettagli dell'atto di chiusura delle indagini per appunto l'abuso d'ufficio notificato ieri. Il procuratore generale parla, per il sindaco di Milano e per il manager Angelo Paris, di un danno di particolare gravità alla società che gestiva l'esposizione, con l'affidamento diretto alla Mantovani della fornitura di 6.000 alberi per l'evento, parte del capitolo verde dell'appalto per la piastra dei servizi. Così scrive appunto la procura generale. Secondo l'accusa mancava anche il requisito dell'urgenza per l'affidamento senza gara. Vedremo come evolverà anche questa vicenda. Intanto ci spostiamo in Russia, perché c'è stata la tradizionale conferenza stampa fiume di fine anno di Vladimir Putin. Quest'anno la maratona televisiva di Putin, una conferenza stampa che dura ore per rispondere a centinaia di domande di ogni tipo, è stata quella di un padre della nazione che va a candidarsi per l'ultima volta nel voto di marzo, ma che non ha l'aria di voler davvero uscire di scena. Putin spiega che si candiderà come indipendente, tenendo le distanze dal partito del potere Russia Unita, per mostrarsi al di sopra delle parti e soprattutto molto più affidabile di un'opposizione che ha detto non ha un'agenda reale e proposte che aiutino davvero a risolvere i problemi della gente. C'è una mostra in questi giorni a Mosca intitolata Putin come supereroe ed è un po' la veste in cui il presidente ama apparire, in controllo dell'economia che si sta riprendendo e all'attacco in ogni sfida, dal doping alle interferenze nella campagna elettorale americana. Conciliante, Putin si è detto convinto che sia possibile normalizzare i rapporti con Washington. Russia e Stati Uniti, ha detto, devono smettere di combattersi come animali. Un ramo d'ulivo per Donald Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E molto si è discusso in queste settimane dell'ingerenza russa, soprattutto sulle elezioni americane e in generale sulle elezioni nell'Occidente. E di questo hanno parlato oggi i nostri servizi di intelligence. Sentiamo. Nessuna evidenza di ingerenze nel passato, ma il monitoraggio resta attento e l'attenzione costante, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Gli 007 rassicurano la politica e sminuiscono l'allarme lanciato dall'ex vicepresidente americano e in parte confermato anche dall'ex segretario della NATO. Convocati dal COPASIR, i vertici di AISI ed AISE riferiscono che al momento non ci sono elementi che proverebbero interferenze russe nella campagna per il referendum costituzionale dell'anno scorso, come invece denunciato da Joe Biden. Un'accusa a cui aveva già risposto in un'intervista al Financial Times direttamente il premier Paolo Gentiloni, ricordando che l'Italia è un paese libero e gli elettori decidono liberamente. Il PD aveva però comunque chiesto approfondimenti, arrivati ora dai vertici dei servizi segreti interni ed esteri Mario Parenti ed Alberto Manenti. Ma per l'ex segretario NATO Rasmussen, Mosca vuole utilizzare l'Italia per dividere l'Europa. Putin non è vostro amico, vuole usare trovare alcuni partiti utili, dice alla stampa, per liberarsi delle sanzioni. Al momento però non ci sarebbero evidenze di ingerenze né sul voto ultimo del referendum costituzionale né sulle prossime elezioni politiche, ma il monitoraggio, garantisce l'intelligence, resta alto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il tema dell'immigrazione al centro del Consiglio europeo che si aprirà oggi, ma qualcuno ha già parlato e alcune informazioni sono già arrivate. Dunque il servizio da Bruxelles. Con una decisione politica che piacerà ad alcuni e dispiacerà ad altri, quattro paesi dell'Europa dell'Est, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, hanno annunciato oggi, qui a Bruxelles, di voler versare 35 milioni di euro al Fondo fiduciario per l'Africa. Il denaro sarà utilizzato direttamente dall'Italia in Libia per meglio gestire il flusso migratorio che passa dal paese africano. I quattro paesi del gruppo di Visegrad sono stati molto critici della decisione del 2015 di imporre nell'Unione quote obbligatorie di rifugiati paese per paese. Addirittura tre stati membri su quattro, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca, sono stati deferiti davanti alla Corte Europea di Giustizia. Il presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, ha parlato di decisione molto rilevante. Ha anche però notato che lo sforzo non cambia la sostanza del problema. La solidarietà non può essere solo finanziaria, deve anche tradursi in nuovi impegni nell'accoglienza dei migranti. Dell'emergenza migratoria i 28 parleranno stasera durante un vertice di due giorni qui a Bruxelles. Le differenze di vedute sono tante tra i Paesi membri. L'obiettivo è di trovare un difficile equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Una nuova politica migratoria deve vedere la luce nel giugno dell'anno prossimo. A proposito, Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. A proposito di Europa, dal 2018 l'Italia sarà ridotta di un ulteriore 3% la quota fissata per la pesca del pesce spada, è quello che appunto Bruxelles ha deciso. La quota fissata attualmente per l'Italia a poco più di 3.700 tonnellate in virtù di un piano pluriennale di ricostruzione dello stock sarà appunto ulteriormente ridotta. Sul piede di guerra i pescatori, che tra l'altro lamentano il fatto che a Bruxelles il ministro dell'agricoltura Martina per questa trattativa non c'era. Ne parla al microfono di Cristina Carpinelli Paolo Tiozzo, che è presidente di Federcoopesca. Sentiamo. Nella trattativa che ha tenuto la Commissione in sede ICCAT è riuscita a portare a casa per tutta l'Europa le famose 7.000 tonnellate. Poi in realtà però nel ripartirle negli Stati membri del Mediterraneo l'Italia è stata penalizzata con oltre 500 tonnellate. Allora vengono inserite delle quote, a queste quote viene fatto un ulteriore taglio penalizzante per la flotta maggiore del Mediterraneo, questo non ci sembra una cosa corretta. Ecco, ma perché? Qual è stata la spiegazione che hanno dato a questo taglio di quota? Ma credo che una politica tenuta all'interno della Commissione dai nostri colleghi pescatori spagnoli e forse francesi, che avendo chiaramente meno quota dell'Italia, abbiano cercato di far pesare a chi ne ha di più quota un unico taglio di 500 tonnellate. In realtà è vero che abbiamo più quota di tutti gli altri paesi europei, ma è altrettanto vero che abbiamo anche molte più imbarcazioni. Ieri il governo, a mio avviso, avrebbe fatto una gran bella figura con i nostri pescatori italiani ad essere presente al Consiglio dei Ministri e dibattere quanto la Commissione ha deciso. Quando non si è presenti si ha sempre torto. Oh, torna sulla Terra l'astronauta Paolo Nespoli. È atterrata poco dopo le 9.30 di oggi, ora italiana, la navetta russa Soyuz che ha riportato sulla Terra l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli e i suoi compagni di equipaggio, l'americano Randy Bresnik della NASA e il russo Sergei Ryazansky di Roscosmos. Il rientro è avvenuto come previsto nelle steppe kazake. Dopo 139 giorni di missione, Paolo Nespoli è così il secondo astronauta europeo ad aver trascorso più tempo in orbita. Più di lui nello spazio era stato il tedesco Thomas Reiter con 350 giorni. E si è conclusa così la missione dell'Agenzia Spaziale Italiana denominata VITA. Acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, la missione ha permesso di raccogliere dati preziosi per studiare come l'organismo umano si adatta alle condizioni di gravità. Il presidente dell'ASI, Roberto Battiston. sulla Stazione Spaziale Internazionale, la nostra casa nello spazio, dove abbiamo la possibilità di svolgere tutta una serie di esperimenti unici che ci permettono di capire meglio cosa fare sulla Terra per affrontare alcune patologie. Ma c'è un altro motivo importante: noi non pensiamo che l'umanità sia una specie monopianeta. Noi abbiamo la possibilità di andare anche su altri satelliti o pianeti. Ora per Astro Paolo, prima la riabilitazione a Houston, poi a febbraio il rientro in Italia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E no, lo dico all'ascoltatore, non chiederemo a Nespoli, semmai lo intervisteremo, se ha visto Igor da qualche parte lassù nello spazio o da lassopra, il famoso Igor il russo, ormai sta diventando una specie di mania di effetto giorno. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia. Andremo a collegarci con la nostra Valentina Furlanetto, la quale questa mattina, beh, tante volte abbiamo parlato del centro di accoglienza si fa per dire, naturalmente, di Iconetta o di Icona, il luogo nel quale vengono ammassate centinaia di persone in condizioni igieniche precarie, e ne vengono ammassate veramente tante. Abbiamo raccolto le proteste del sindaco, abbiamo raccontato della rivolta che ci fu a gennaio scorso e di come le cose siano poco cambiate. Ebbene, la nostra Valentina Furlanetto questa mattina è entrata nel centro di Icona, ha dato un'occhiata e tra poco ci racconterà tutto. Torneremo a parlare anche nel nostro Giro d'Italia della questione dei simboli religiosi nelle scuole, perché un'altra volta scatta tutta una enorme polemica su una scuola, un istituto comprensivo milanese, nel quale si organizza una cosa che si chiama Festa delle Buone Feste, che ha fatto alzare il sopracciglio a qualcuno. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del biotestamento che è passato in Senato, dello scontro aperto nel centrodestra, di quello che dice l'intelligence su presunti interventi stranieri sul voto in Italia, che non ci sono stati, dice appunto l'intelligence, di immigrazione del Consiglio europeo e della terza missione nello spazio di Paolo Nespoli, che si è conclusa oggi con la Soyuz atterrata oggi. Un saluto tra l'altro all'ascoltatore Johnny che ci scrive sulla pagina Facebook e ricorda come ha fatto il militare di leva insieme a Paolo Nespoli, e aggiunge: che bella carriera ha fatto. Eh sì, ha fatto decisamente una bella carriera, ed è una carriera che tra l'altro richiede un impegno pazzesco, perché non basta voler fare l'astronauta, ma bisogna studiare tantissimo oltre ad essere preparati fisicamente. Andiamo dunque in apertura del nostro Giro d'Italia a Icona, luogo che abbiamo frequentato spessissimo, quantomeno qua da questi studi e non solo, raccontando quello che è successo fin da prima di quella rivolta che scattò nel gennaio dell'anno scorso da parte dei migranti per le condizioni nelle quali si trovavano. Da prima abbiamo iniziato perché ci è sembrata fin da subito una situazione assurda la collocazione, il fatto di ammassare così tante persone in uno stesso luogo, pur in campagne abbastanza sperdute. Abbiamo raccolto il grido di dolore del sindaco di Icona soprattutto, il quale protestava non tanto per la presenza di queste persone, ma anche per come veniva tenuto questo luogo. Ebbene, oggi, come si diceva, la nostra Valentina Furlanetto, che è in linea con noi, è stata proprio questa mattina all'interno del centro di Icona. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, infatti sono qui proprio vicinissima al filo spinato e alla recinzione che è tutta attorno a questo grande campo per migranti. Sono entrata questa mattina, sono stata accompagnata dai gestori, la cooperativa Edeco che gestisce Icona ormai da 2 anni e mezzo, e ho visto questi grandi tendoni. Allora, innanzitutto c'è da dire che l'impressione che ho avuto è che il centro sia stato un po', diciamo così, ripulito per l'occasione di questa visita orbita, perché ad esempio era molto caldo in questi grandi tendoni dove dormono i migranti, mentre un mese e mezzo fa sappiamo c'è stata una protesta molto vivace perché avevano molto freddo e tendevano delle stufette. Quindi anche fuori i migranti mi testimoniavano che di solito non è così caldo, l'impressione è insomma è che non sempre sia così. Ci sono al momento 740 ospiti, dormono in questi tendoni sovraffollati e questo chiaramente non poteva essere nascosto, si vedevano tutte queste lunghissime file di letti a castello dove c'erano coperte, tende, lenzuola un po' alla rinfusa, è una situazione abbastanza di degrado, non riesco a immaginare un tendone così quest'estate quando erano 1500 persone con la temperatura molto alta qui della pianura, come fosse la situazione. Dicono che l'acqua è fredda, hanno problemi alla pelle per delle irritazioni proprio per il tipo di acqua, si lamentano che non ci sono lezioni, in effetti nessuno riusciva a esprimere un concetto base in italiano. Io ho raccolto la voce di alcuni residenti e di alcuni migranti, ma vi faccio sentire due esempi. Un centro di accoglienza proprio misero è rimasto, perché non ci sono casette, non è muratura, ci sono tendoni, quindi è una situazione di degrado al massimo per loro in primis, perché è ovvio, non potevano pensare neanche minimamente che se ne stessero buoni, anche perché siamo arrivati, non so se qua forse ne saranno passate oltre 6-7 mila a giro, siamo arrivati a 1600. Quindi un bel numero. Yeah, okay, but you are not fine. But here is not good. Here is not good for. But here is not good for us. We are not okay. As I see, the water we are used to buy is scratching on my body now. I'm scratching. Look at where we are staying. Look at what. Come and look my bed. It's not good. Why? Look at my body. Because of the water. The water is not good. It's not good. I'm not okay here. Allora, questo è il quadro delle voci che hai raccolto. Mentre invece, Valentina, dalla cooperativa che gestisce tutto questo, non sei riuscita a raccogliere una voce, a sapere qualcosa di più su come viene gestito? Sì, perché a sorpresa mi hanno inondato di parole sulla missione cristiana che portano avanti. Dicono che si ispirano appunto a dalla fede cristiana, ma non hanno voluto rilasciare nessuna intervista. La Coop Edeco, che gestisce questo centro, come altri 25 centri in Veneto, tra cui Bagnoli, per un totale di oltre 2500 migranti, è anche sotto indagine per truffa, maltrattamenti, è stata sospesa da Confcooperative e nonostante questo il bilancio va molto bene perché è lievitato da 115.000 euro nel 2010 a 10 milioni nel 2015. Gli ultimi due bilanci li ho chiesti, ma non me li hanno dati. E per quanto riguarda i residenti, almeno per le voci che sei riuscito a raccogliere della zona? Allora, ti dirò, sono molto più arrabbiati per la deposizione di Zonin ieri e per i risparmi persi con la Popolare di Vicenza che per la presenza dei migranti. Una presenza, dicono, discreta, alla quale si sono abituati in due anni e mezzo di convivenza e che non dà grossi problemi, perché non ci sono state tutto sommato i problemi di ordine pubblico. Sicuramente sono molto a disagio in una situazione in cui 190 abitanti di Conetta si trovano a avere a che fare a volte con una presenza di oltre 1000 persone che non conoscono, che non parlano italiano, perché è molto difficile raccogliere voci di persone che parlano italiano e che c'è una diffidenza naturale. Però devo dire che la signora che avete sentito è abbastanza, è un'opinione abbastanza vicina alle altre che ho raccolto. Che hai raccolto. Certo. Allora, Valentina, io ti ringrazio per questo racconto, un racconto che poi diventerà un reportage che potrete ascoltare nel fine settimana, oltre che un viaggio, come sentite, nei GR di Radio 24 tutte le mattine. Noi restiamo a parlare di immigrazione per una sentenza che arriva da Milano. Il cosiddetto bonus mamme, un giudice ha bocciato la circolare dell'INPS. Circolare dell'INPS che prevedeva che questo bonus mamme, che è il premio nascita di 800 euro una tantum, non potesse andare agli stranieri, e invece il giudice ha stabilito che sì, questo premio deve andare. Siamo in linea con l'avvocato Antonio Guariso dell'ASGI, che è un'associazione di avvocati che si occupa di immigrazione, appunto di giuristi che si occupa di immigrazione e che ha seguito esattamente questo caso. La sentenza dice in sostanza questo, avvocato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Sì, la sentenza prende atto di quello che dice la legge quando è stata fatta questa norma, è stato deciso di farlo con la massima ampiezza. La legge è molto sintetica, dice a tutti deve essere riconosciuto questo premio, questa prestazione, che è poi una prestazione appunto di aiuto a chi si trova in questa situazione di maternità, e quindi la circolare dell'INCE, dice il giudice, non poteva restringere il numero dei beneficiari di fronte a una previsione così ampia. Tra l'altro crediamo che questo risponda anche a esigenze di equità, perché è vero che appunto questo beneficio era previsto senza limiti di reddito, quindi persino per le mamme più ricche, ma proprio per questo escludere, come ha fatto la circolare INCE, gli stranieri che non hanno il permesso di lungo periodo vuol dire escludere proprio le mamme straniere che hanno più bisogno, che normalmente sono quelle anche con un reddito più basso. Questa sentenza apre, avvocato, a centinaia di ricorsi, immagino. Beh, no, anzi, o richieste di ottenere questi 800 euro. Certo, no, la particolarità della sentenza è che era appunto una causa promossa dalle associazioni per far sì che il giudice ordinasse all'INPS di revocare la circolare, quindi che per fare in modo che si risolvesse una volta per tutte, evitando il moltiplicarsi del contenzioso. Il giudice ha accolto la richiesta e quindi ha ordinato all'INPS di fare un atto generale, cioè di riconoscerlo a tutti coloro che faranno domanda. I numeri non sappiamo quali siano, gli stranieri con permesso di soggiorno ordinario e non di lungo periodo, che appunto erano già inclusi, sono il 40% degli stranieri residenti in Italia. Non sappiamo quanti di questi abbiano partorito nel corso del 2017, non saranno numeri enormi, però certamente è un numero significativo. La ringrazio, grazie. Prego, avvocato Guarito Ellaggi, per averci raccontato un po' di questa sentenza, comunque voi la pensiate, perché vedo che arriva qualche sms, qualche messaggio anche su Facebook, molto duro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e torneremo in un altro luogo che abbiamo frequentato spesso, il Parco dei Nebrodi, perché oggi c'è una bella pagina del quotidiano La Repubblica che racconta di questa donna, di questa ragazza che ha deciso di prendere in gestione un rifugio del Parco dei Nebrodi, che è un po' il biglietto da visita, il biglietto d'ingresso, per così dire, al Parco dei Nebrodi in Sicilia. Ebbene, da quel momento riceve molte minacce da quella che viene chiamata la mafia dei pascoli, perché sta cambiando il regime di concessione dei terreni in quella zona, dei terreni agricoli, da quando è intervenuto e è arrivato sul campo un'altra persona che è stata fortemente minacciata, Giuseppe Antoci, che è il presidente l'ente parco, che sarà nostro ospite, e si prova a fare resistenza contro le mafie anche in questo modo. Ci fermiamo la borsa e poi dopo parliamo di questo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il biotestamento passa in Senato a larga maggioranza, ora in legge sarà un diritto rifiutare le cure. Scontro aperto nel centrodestra sulla giustizia, Salvini e Berlusconi, nessun tavolo con chi protegge gli stupratori. Non ci sono prove di interventi stranieri sul voto in Italia, dice l'intelligence del nostro paese. Immigrazione dai paesi dell'est, fondi per l'Africa. Gentiloni dice è rilevante, ma il minimo sindacale sono le quote obbligatorie. Terminata la terza missione nello spazio di Paolo Nespoli in orbita dal 28 giugno, la Soyuz atterrata oggi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Fatevi dire però, cari ascoltatori che ci scrivete via sms, via whatsapp, che però dovete ascoltare le cose e guardare un po' il quadro complessivo. Senza offesa dico a David che ci scrive da Firenze e parla di una trasmissione migrantocentrica. Guardi che non è di quello che stiamo parlando, e sono ormai anni che lo ripetiamo. La questione non è essere a favore o contro l'accoglienza. La questione è, e Cona è una perfetta rappresentazione di tutto questo, di come si gestisce il fenomeno. E di certo il fenomeno non si gestisce ammassando centinaia di persone all'interno di una specie di tendopoli dove fanno 50 gradi d'estate e fa freddo d'inverno, con mezzi di fortuna, affidato ad una cooperativa sulla quale viene sollevato qualche dubbio, insomma, anche in termini di quanto ci guadagni e quanto ci campi su tutto questo. Insomma, quindi è semplicemente sollevare il dubbio su come viene gestito tutto questo. Non è il tema dei migranti o non migranti, è il tema di come lo Stato gestisce il suo territorio. Ed è questo il punto. E a proposito di territorio e di gestione dello Stato, andiamo al Parco dei Nebrodi da Giuseppe Antoci, che è il presidente dell'Ente Parco e torna da noi. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Allora, la vicenda è questa e viene raccontata oggi da Salvo Palazzolo sul quotidiano La Repubblica in un bel pezzo, un racconto che parla di Magda Scalisi, che è una donna che ha deciso di prendere in gestione, e viene da tutt'altra vita, e ha deciso di prendere in gestione e da una vita cittadina, ha deciso di prendere in gestione il rifugio, un rifugio sul Parco dei Nebrodi a 1200 metri di altezza, e da quel momento è un continue minacce da quella che supponiamo essere, anzi lei immagino ce lo confermerà, la cosiddetta mafia dei pascoli, orecchie di maiali mozzate, e non solamente quello. Che cosa sta succedendo, Antoci? Guardi, questa è la solita scena di film già visti. Guardi, noi abbiamo nel parco, quello intanto è un rifugio del parco, è una struttura nostra del Parco dei Nebrodi, che era stata per anni in gestione a un'azienda, tra l'altro con un contenzioso lungo, che non pagava da anni l'affitto. Io quando sono arrivato ho rescisso il contratto, abbiamo rifatto il bando e ovviamente nel bando abbiamo messo l'obbligatorietà del certificato antimafia in linea con quello che abbiamo fatto sui terreni. Questo bando viene vinto dalla Scalisi con un'azienda che loro hanno e che comincia ad attivare una serie di attività in linea con quello che noi stiamo facendo sul territorio, quindi comincia a chiedere le fatturazioni, la provenienza, non accettare le macellazioni clandestine, insomma cerca di portare magari alla normalità qualcosa che lì si pensasse insomma potesse andare avanti solamente con il solito metodo delle truffette, sì, e delle illegalità varie. E quindi comincia un atteggiamento di come dire rifiuto di questa persona, cominciano una serie di atteggiamenti strani, una serie di eventi strani. Io sono intervenuto attivando immediatamente l'Associazione Nazionale Anti-Racket, che si sono col presidente Scandurra si sono recati dalla Scalisi, hanno già attivato il primo percorso. Le forze dell'ordine sono state devo dire molto presenti sulla vicenda, anche il vicequestore Manganaro, che storicamente ha portato avanti le indagini nei territori delle province, sì, di Enna e di Messina sui fondi europei e sulla mafia dei terreni. Perché attenzione, perché mafia dei terreni? Sì. Perché il giro vorticoso di milioni di euro che stanno dietro, che stavano, possiamo dire, dietro alle truffe alla GEA e quindi all'utilizzo dei fondi pubblici destinati invece agli agricoltori per beni, che invece le indagini hanno portato in maniera chiara ed evidente, sì, avanti il discorso che erano nelle mani delle famiglie mafiose fra le più importanti, Santa Paola e quant'altro, e questo non è un tema siciliano. Tant'è vero che il protocollo di legalità che noi abbiamo, sì, fatto è diventato legge dello Stato il 27 di settembre. Sì, Antoci, se si ricorda, tra l'altro ne abbiamo parlato anche esattamente di questo. Ma c'è una questione più generale, cioè una questione che riguarda non solamente il caso di Magda Scalisi, ma in generale il Parco dei Nebrodi, cioè un sistema di riassegnazione, no? dei terreni e delle zone da poter sfruttare all'interno del parco, che sta probabilmente suscitando tensione tra chi lo gestiva prima nell'illegalità. Assolutamente sì, ma questo non è un tema solo dei Nebrodi. Oggi tutte le revoche dei terreni che sono state fatte in Sicilia, che a breve inizieranno col nuovo codice antimafia nelle altre regioni, pensi cosa c'è in Calabria, in Campania o in altre regioni d'Italia, certamente crea fibrillazione, cioè coloro che si sentivano padroni del territorio, perché attenzione che la mafia, cosa nostra, per prima cosa presidia i territori. Allora, oggi il presidio del territorio, sì, che era attraverso i terreni, è venuto a mancare. Oggi partecipare ai bandi pubblici col nuovo codice antimafia è impossibile senza, sì, certificato antimafia, e tenete conto che è anche difficile trovare, sì, i prestanomi, perché la legge è quella sulla prevenzione delle infiltrazioni, non sui carichi pendenti. Quindi certo, questa fibrillazione di cui parla lei è chiara ed evidente, a sì, volte sfocia anche in atteggiamenti di ripercussione in coloro come la Scalisi, porta in un territorio novità, legalità, atteggiamenti seri e che vogliono portare sviluppo e legalità. Mi dica una cosa, quello... Antoci, mi dica una cosa, Antoci, è possibile a questo punto, da quel che ci racconta lei, che nei prossimi mesi, visto il progressivo cambiamento di regime che state portando avanti, questa fibrillazione prosegua e possa sfociare in altri episodi di questo genere, magari nei confronti di altre persone? È prevedibile, dico, poi speriamo di no, ovviamente, eh. Guardi, io le dico che per quello che sono le cifre, tenga conto che in Sicilia la programmazione precedente è valsa 5 miliardi di euro sui fondi europei, pensi il dato nazionale che supera i 40 miliardi. Allora, è possibile che questa mancanza di flussi economici, che adesso la mafia ovviamente perderà, che poteva servire al sostentamento delle famiglie dei carcerati, al mercato della droga, agli investimenti immobiliari, oggi le mafie perdono un pezzo importante di finanziamento che loro prendevano da anni. Cosa comporterà questo? Certamente comporterà non certamente simpatie oltre quelle note che mi riguardano, ma questo lo do per scontato, pazienza, è una cosa che abbiamo messo in conto. Però appare chiaro che queste fibrillazioni potrebbero creare delle ulteriori fibrillazioni ai territori, soprattutto nelle ritorsioni a coloro che adesso, le persone per bene, partecipano ai bandi pubblici. E potrebbe accadere che magari si viene a creare la vicenda del pizzo, cioè tu, va bene, sì, partecipi, puoi partecipare solamente tu ai terreni, ma mi devi dare una parte dell'introito. E allora lì le forze dell'ordine sono sul pezzo, le DDA territoriali sono sul pezzo, vedremo soprattutto cosa accadrà nelle altre regioni con le revoche dei finanziamenti e i sequestri dei beni. La ringrazio, grazie a Giuseppe Antoci, presidente dell'Ente Parco Inebro, di tanto per insomma essere venuto da noi un'altra volta, quanto e soprattutto per il suo lavoro. Qualche messaggio agli ascoltatori arriva e dice: forza, non mollate. A chiudere, i centri storici italiani, parliamo dei centri storici italiani molto brevemente. Centri storici italiani con profonde differenze, soprattutto tra nord e sud, che sono però un motore economico del paese. Sono alcuni degli elementi di un rapporto che verrà presentato oggi, tra l'altro, a firma ANCSA, che è l'Associazione Nazionale dei Centri Storico Artistici, e CRESME. Abbiamo sentito Francesco Bandarin, che è appunto il presidente dell'ANCSA. Innanzitutto, siccome è un panorama nazionale, abbiamo notato un'enorme differenza di situazioni fra nord e sud del paese. Nel nord i centri storici avanzano in termini di occupazione, popolazione, eccetera, nel sud recedono in termini di popolazione, di valori immobiliari. Siamo in una situazione grave, grave, grave crisi. Nel sud i centri storici sono implosi. Secondo, questi sono piccoli, che coprono circa il 2% della popolazione. Hanno il 15% dell'occupazione, quindi sono delle bombe economiche i centri storici. Il tasso di crescita dell'occupazione dei centri storici è 4 volte quello del paese, e su questo non è riconosciuto bene, non ci sono politiche specifiche, non c'è una identità di questo valore economico delle città storiche. Terza cosa, le città storiche sono malate, sono tutte malate, anche quelle che vanno bene, perché quelle che vanno bene sono malate di eccesso di turismo che scaccia via gli abitanti, si impadronisce del patrimonio immobiliare, trasforma le città in villaggi turistici. Quelle che non hanno il turismo sono malate di abbandono, di degrado, eccetera. Quindi siamo di fronte a una situazione un poco paradossale. Le colonne economiche del paese sono malate. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.